Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. La duchessa s'era poste le mani in capo. Dopo aver sacrificato tutta la vita per amore di quel primogenito, per assicurare una grande ricchezza a lui e alla sua discendenza, dopo aver tanto aspettato a dargli moglie perché nessuna, a suo giudizio, lo meritava. Ora che gli aveva trovato la cugina Teresa, che era la vigilia di coronar l'opera di 30 lunghi anni, l'amoretto di Giovannino distruggeva a un tratto tutti i suoi piani. Ella non aveva sospettato una cosa simile, tanto le pareva che Giovannino dovesse sentir l'obbligo di restar scapolo affinché il primogenito continuasse la casa. Quando Michele prenderà moglie, quando Michele avrà figli, lo stesso Giovannino non aveva parlato d'altro che del matrimonio di Michele, del duca. I due fratelli si volevano bene, erano andati sempre d'accordo. Se dunque Giovannino pareva voler mettere i bastoni tra le ruote, la colpa era di lei che non lo aveva avvertito del matrimonio designato. La colpa era anche di Michele, indifferente a tutto, incapace di riscaldarsi per niente, solo amante della bella caccia e della buona tavola. Quando la madre aveva lasciato passare gli anni senza dargli moglie, egli non aveva chiesto di prenderla. Adesso che gli proponeva la cugina Teresa, si disponeva a sposarla senza volontà, senza desiderio, come avrebbe fatto una cosa qualunque. Trattava la cugina con la confidenza giustificata dalla parentela, scherzava con lei come scherzava con tutti, un po' grossolanamente. Era incapace di dirle una parola tenera. Chi poteva dunque sospettare che quello fosse un futuro promesso della ragazza? Non lo sospettava neppure Baldassarre, il quale rimase, vedendo che il fidanzato non era più il suo favorito, ma l'altro fratello. Come? Il principe voleva dare quell'altro alla padroncina. Ma se la signorina non lo voleva, se egli stesso, Baldassarre, aveva annunziato a tutti che il promesso era il barone Giovannino. Ma andiamo, il principe non sa che la padroncina vuol bene il piccolo. Quando vedrà che dice davvero, si persuaderà. Teresa non piangeva più adesso. Aveva versato tante lacrime in segreto bagnando il suo guanciale, tutte le notti. E la principessa, smessa la severità, ricominciava a persuaderla con le buone, amorosamente, dicendole che i migliori giudici di quel che le conveniva erano i suoi parenti, che ella poteva ingannarsi, come s'era ingannata, per esempio, sua zia Lucrezia. Aveva voluto a qualunque costo sposare Giulente. E adesso come ne parlava? Certo, i casi erano diversi, perché tra Michele e Giovannino non passava tanta differenza da rendere l'uno degno di lei e l'altro no. Ma c'era una grave ragione che le consigliava a darle il maggiore, una ragione che bisognava pur dire. Se Michele non è un così bel giovane come Giovannino, ha una salute di ferro, mentre suo fratello è gracile, cagionevole. Senza notare un'altra cosa, più grave ancora, la soverchia e irrequietezza dello spirito. Non sai che suo padre era già pazzo quando egli nacque? Dio disperda la profezia, ma se un giorno anche a lui voltasse il cervello? E se temevano per la salute morale di Giovannino, perché le consigliavano di portargli un colpo così forte, come quello di rifiutar di sposarlo, dopo che egli le aveva detto di volerle bene a lei sola? No, ella non diceva questo, non diceva nulla di ciò che pensava. Perché dovendo manifestare tutto l'animo suo, avrebbe dovuto dire che suo padre voleva sacrificarla ad uno sciocco pregiudizio, che la madrigna fingeva quell'affetto per indurla a fare ciò che voleva il marito. Avrebbe dovuto dire che in nessun'altra famiglia la malattia del padre è stata ragione di ordire l'infelicità delle figlie. E avrebbe dovuto dire ancora che la ribellione di Consalvo si mostrava ora giustificata. Avrebbe dovuto ribellarsi ella stessa. Ma questo era peccato. Thank you. Il centenario della Beata Ximena fu celebrato con pompa straordinaria. Per il Triduo, la chiesa dei Cappuccini, tutte rosse draperie, frange dorate e tappeti fioriti, fu illuminata a giorno. Le campane suonavano a festa. Le messe che si seguivano a tutti gli altari chiamavano una folla sterminata di fedeli d'ogni stato. E i discendenti della santa vi convennero anch'essi, ma in ore diverse per evitarsi dal tanto amore. Già per cura del padre guardiano, coadiuvato dal padre Camillo e da monsignor vicario, era venuto in luce un opuscolo intitolato «Nel terzo centenario della canonizzazione della Beata Uzeda» e stampato con molto sfoggio di margini e di colori. Ximena, della illustre prosapia degli Uzeda. Così cominciava il primo capitolo. Fu figlia al viceré Consalvo e alla nobile Caterina dei baroni di Marzanese. Fin dai teneri anni diede esempio di edificazione della famiglia, facendo sua delizia delle sacre immagini e degli uffici divini. Quantunque per naturale lezione essa volesse dedicare la sua vita allo sposo celeste, pure le ragioni della politica persuasero il padre suo a far la sposa del conte di Motta Reale, potente signore spagnuolo, ma uomo d'efferato animo e senza timor di Dio. Seguiva la narrazione dei rifiuti opposti da Ximena, dei lunghi pianti, del contrasto tra l'amor filiale e il celeste. Ma un giorno, essendo la giovinetta in età di 15 anni, avverossi singolare prodigio. Un angelo apparse a Ximena, il quale le disse: «Il Signore t'ha eletta per redimere un'anima, obbedisci». Allora la fanciulla aveva accettato il partito. Il secondo capitolo descriveva il castello del conte, posto sopra un luogo eminente, a cavallo di più strade battute dai mercanti, e narrava le scelleratezze del suo signore. Aggrediva egli viandanti, li lasciava nudi, legati ad un albero in mezzo alla strada, oppure li menava prigioni o li spegneva tra spasimi crudeli. La sua vita era un'orgia. Egli faceva oltraggio alle donne, gozzovigliava da mane a sera, bestemmiava Dio e i santi e si prendeva beffe dei ministri del cielo. E i tormenti inflitti alla sposa erano materia del terzo capitolo. Partito un bel giorno il conte per i suoi possedimenti di Spagna e restata sola in Sicilia la sposa, tutto s'era un tratto mutato nel castello di Motta Reale. Dove prima echeggiavano osceni canti e ferri incrociati e colpi di fuoco e grida selvagge e lugubri lamenti, solo le laudi dell'Altissimo salirono al cielo. In quei luoghi dove tanti miseri erano caduti vittime del conte, altari e croci s'alzarono, ad espiazione degli antichi delitti, a conversione dei miscredenti. Tutte le sostanze di Ximena furono spartite alle chiese. Ella viveva vita frugale, dicendo: «Il poco mi soverchia, il molto mi spaventa». Non contentatasi che i poveri venissero a lei, ma si andava ai poveri, sfidando le intemperie e i pericoli, protetta visibilmente dal cielo. Teresa aveva gli occhi bagnati di pianto, dalla commozione, ma il libretto non era finito. L'ultimo capitolo narrava i nuovi e più grandi e più chiari esempi di carità e santità che la Beata aveva dato dopo la morte del marito. Da ultimo narrava la morte di lei e i suoi miracoli. E quella lettura, la solennità del centenario, i discorsi del confessore e della madrigna e della zia monaca, la malattia del padre, la stessa esaltazione dello zio Lodovico alla suprema dignità ecclesiastica avvenuta in quei giorni, tutto concorse a piegare come cera il cuore di Teresa. La costringevano forse a sposare un mostro, come avevano costretto nei tempi la santa. Michele non era un mostro, era un buon giovane, e i parenti non la costringevano, le tenevano il linguaggio della persuasione, le consigliavano la virtù dell'obbedienza, parlando per il suo bene, per la pace delle due famiglie, per la salute del padre, ammalato, dicevano, dai tanti dispiaceri. E passò dell'altro tempo. Il principe migliorò e ricadde. La duchessa venne a palazzo col solo primogenito. La trama dei consigli, delle persuasioni, degli incitamenti si strinse intorno a Teresa. La madrigna le disse che Giovannino, per non essere d'ostacolo alla felicità del fratello, aveva dato l'esempio dell'obbedienza, se n'era andato ad Augusta, dove domiciliavasi per badare alle proprietà. Teresa consideravasi impegnata dinanzi alla Beata. Acconsentì. 3 mesi dopo, la duchessa venne a presentare il duca in casa della fidanzata. Già Consalvo era arrivato a palazzo e Teresa, presolo per mano, lo aveva guidato nella camera del padre. «Babbo», gli aveva detto, «c'è qui suo figlio che viene a baciarle la mano». Il principe, tenendo la sinistra in tasca, gli porse la destra a baciare e alla domanda del figliuolo Come sta, Vostra Eccellenza? Benissimo, rispose calcando un poco la voce senza domandargli: E tu? Non avevano ancora barattate quattro parole che la carrozza di donna Ferdinanda entrò con gran fracasso nel cortile. La principessa baciò la mano alla vecchia e abbracciò la cognata Lucrezia, la quale portava un abito elegantissimo, seta color d'albicocco con guarnizioni pistacchio. Tutti gli altri parenti sopraggiunsero: il duca d'Oragua, Giulente, il marchese senza la moglie, la quale non voleva più venire dal Belvedere, dove il bastardello, cresciuto negli anni e rovinato dall'educazione di lei, la picchiava di santa ragione. Il principe, salutando i parenti, guardava con la coda dell'occhio Consalvo e non cavava di tasca la mano sinistra. Arrivò finalmente il promesso con la madre. Il duca, vestito quasi elegantemente, non faceva poi un troppo brutto vedere ed aveva l'aria contentissima. Così la pace era generale e solamente donna Ferdinanda guardava in cagnesco Consalvo per l'apostasia della quale s'era macchiato. Ora, mentre questo avveniva nella sala gialla, Baldassarre nell'anticamera parlava solo, fuori di sé. «Guardate un po', e io che non credevo, adesso anche lei. Ma allora come sono, tutti pazzi? Questa no, non dovevano farmela». No, fino all'ultimo momento, egli non aveva creduto a quel che gli diceva tutta la città. «Il duca, sposa il duca!» Egli valeva meno in quella casa del manico della granata e parlava solo, non udiva gli squilli del campanello, dimenticava gli ordini, sbagliava il servizio. Ma quando la gente cominciò ad andarsene, un'impazienza febbrile l'animò ad un tratto. Spingeva via le persone con gli occhi, non stava fermo un minuto e finalmente, quando credette che non ci fosse più nessuno, entrò nella sala rossa. «Eccellenza, e tu che vuoi?» «Eccellenza», disse il maestro di casa, «io me ne vado». «Dove?» domandò il principe, credendo d'avergli dato qualche commissione della quale s'era dimenticato. «Me ne vado via. Chiedo licenza a Vostra Eccellenza». Uno dei primissimi provvedimenti del giovane sindaco, appena insediato al municipio, era stato quello relativo alla costruzione di un'aula per le riunioni consiliari. All'antica saletta fu sostituito un grande salone provvisto di due file di banchi che per gradi si elevavano dal suolo ad anfiteatro, con tre ordini di posti per ciascuna fila. «Un Parlamento in miniatura», dicevano quelli che erano stati a Roma. E le adunanze del Consiglio, sotto la presidenza di Consalvo, prendevano ora un vero carattere parlamentare. Prima cura della nuova amministrazione furono i lavori pubblici. Il sindaco, in un discorso dove rammentò la via Appia, che da Roma conduceva all'Adriatico, dimostrò la necessità di sistemare le strade. E la città fu messa sottosopra. Somme considerevoli furono spese per indennizzare i proprietari danneggiati. Ma la vistosità dei risultati fruttò considerevoli elogi al giovine amministratore. Qualcuno timidamente faceva osservare che tutte quelle cose stavano benissimo, ma... E i quattrini? Ce n'erano abbastanza? Consalvo rispondeva che il bilancio ad una città in via di continuo progresso presentava tale elasticità da permettere non che quelle, ma spese anche maggiori. La popolarità essendo tutta sua, egli faceva degli assessori ciò che voleva. Se manifestavasi qualche velleità di contraddizione, la sedava suscitando gli uni contro gli altri coloro che s'accordavano nell'opposizione, oppure, quando la faccenda era più seria, minacciando di andarsene. Così egli si teneva bene con tutti e raccoglieva lodi da ogni parte. Quelli che s'accorgevano nel suo gioco e lo denunziavano, o non erano creduti, o erano sospettati di invidia e di malignità, o finalmente, se trovavano credito, sentivano rispondersi: «Fanno tutti così in questi tempi d'armeggio. Il principino ha questo vantaggio, che è ricco e non ha da ingrassarsi alle spalle nostre». Ma gli oppositori più vivaci non mancavano. Come trasformatasi materialmente, la città prendeva anche moralmente un nuovo indirizzo. La popolarità del vecchio duca andava scemando di giorno in giorno. Il circolo nazionale, che aveva spadroneggiato, perdeva sempre più credito. Le nuove società popolari non ne avevano ancora, ma le riforme promesse dalla sinistra l'avrebbero loro conferito. Frattanto, alla discussione dei negoziati pubblici partecipavano classi e persone dapprima incapaci di comprenderne nulla. Il duca e i suoi malvacei amici, ostinandosi a giurar sulla destra, aspettando il ritorno di Sella e Minghetti come quello di Nostro Signore, avevano creato un'associazione costituzionale, di cui tuttavia l'onorevole deputato non aveva voluto essere capo. Siccome Consalvo sapeva che molti, udendo celebrare la sua fede democratica, ridevano d'incredulità esclamando: «Lui, il principino di Mirabella, il futuro principe di Francalanza, il discendente dei viceré, ma andiamo!» Egli affermava: «Per questa fede, per questi principi, io sono venuto in urto con mio padre, ho rinunziato all'eredità di mia zia e sosterrei ogni maggiore avversità». Egli andava adesso qualche volta da suo padre. Non aveva più avversione contro di lui. Lo zelo, la febbre con la quale si occupava della cosa pubblica, la tensione di tutte le sue energie al conseguimento del proprio ideale, non lasciavano posto a nessun altro sentimento, né d'odio né d'amore. I loro discorsi s'aggiravano sopra cose indifferenti, come fra estranei. Il principe fingeva non sapere che Consalvo fosse il primo magistrato civico, ma insomma, adesso stavano insieme da cristiani. Teresa, ora duchessa Radalì, vedeva in tal modo compensato il proprio sacrificio. Eccettuati i primissimi tempi, quando la memoria di Giovannino non era interamente morta nel suo cuore e più grande le era parsa la superiorità di lui sull'altro fratello, ella non aveva del resto sofferto quanto aveva temuto. Il duca Michele non solo la trattava bene e le lasciava ogni libertà, ma le dimostrava a modo suo, un po' alla grossa, un affetto vivo e sincero. Presto la gravidanza le fece dimenticare del tutto i sogni del passato e l'affezionò meglio alla realtà del presente. Soffrì pochissimo durante la gestazione. Il tempo volò rapido in mezzo a tante cure e a tanti pensieri. Il parto fu felicissimo. Tutti aspettavano un maschio e un maschio nacque, un bambino grosso e florido che pareva d'un anno. Molti degli invitati al battesimo, nuovi tra gli Uzeda, avevano chiesto chi fosse un vecchio magro e sfiancato, il quale portava un abito nuovo fiammante e certe scarpe che ridevano dalle crepe, un cappello unto e una mazza col pomo d'argento. Era il cavaliere Don Eugenio. Thank you. Egli aveva riscattato l'edizione del primo araldo che il tipografo teneva sotto sequestro e con 1000 copie dell'opera se n'era tornato al suo paese per venderle e mangiarci su. Faceva il conto senza il principe. Appena visto tornare lo zio e udito che aveva qualche soldo, andò a chiedergli la restituzione del prestito. E siccome don Eugenio tirò in ballo la rinuncia ai suoi diritti, egli gridò: «Che diritti e che storti! Sono stato spogliato! Si sono preso tutto! Io vi ho dato i quattrini, restituitemeli, adesso che li avete!» Vista l'amara parata, don Eugenio gli confidò: «Ma non li ho! Ti giuro che non li ho! Ho 4 soldi per tirare avanti. Se ti do 2500 lire, come mangio?» «Datemi allora le copie», rispose pronto Giacomo. «Ma sono la mia sola risorsa. Se tu me le togli, dove vado a sbattere? Che ti importa di un po' di carta sporca? Tu che sei tanto ricco. Per me è il pane. Le venderò a poco, avrò tanto da campucchiare». Il principe inflessibile volle presso di sé tutta l'edizione dell'Araldo Sicolo e del supplemento, come garanzia del proprio credito. Quantunque mezza Sicilia fosse inondata di quella pubblicazione, pure riusciva spesso a don Eugenio di collocarne qualche copia, e allora andava a prenderla dal principe promettendo di portare i quattrini per poi dividerli con lui. Ma i quattrini non venivano mai, talché un bel giorno, stanco d'essere beffato, il nipote gli dichiarò: «Mi pare che lo scherzo sia durato a lungo. D'ora in poi, se vorrete altri esemplari, li pagherete anticipatamente». Allora, finiti i soldi che aveva portato da Palermo, gli imbarazzi ricominciarono per l'ex gentiluomo di camera. Come un fattorino di libraio, egli saliva e scendeva le scale, coi piedi gonfi dalla gotta, trascinandosi penosamente per offrire il suo araldo, per mostrarne una dispensa di saggio, e quando arrivava a scovare un compratore, correva a supplicare il principe perché gli desse la copia, giurando e spergiurando che sarebbe tornato subito coi quattrini. Ma il principe, duro: «Portateli prima!» Non sapendo dove dar di capo, il vecchio fermava i parenti e le semplici conoscenze per farsi prestare 30 lire. Raggranellatele, le portava al nipote, il quale, solo dopo averle intascate, rilasciava l'esemplare. Ma, riscosso il prezzo dal compratore, don Eugenio dimenticava di soddisfare i debiti contratti, talché l'operazione si rinnovava ogni volta con maggior difficoltà. Del resto, il cavaliere trovava da un certo tempo la piazza molto più dura di prima. Da gente a cui egli non aveva mai proposto l'araldo, sentivasi rispondere: «Un'altra volta? L'ho già!» Dicevano così per mandarlo via. Un giorno, per sincerarsene, egli domandò a uno di costoro come l'avesse. «Oh bella, l'ho comprato! È venuta una persona di casa vostra! Non siete zio del principe?» Il vecchio si batté la fronte. Quel birbante di Giacomo! Non contento di avergli preso 9000 lire di roba in cambio delle 2500 anticipate, non contento d'avergli reso impossibile la vendita, pretendendo l'anticipazione del prezzo, adesso vendeva le copie per proprio conto. Ah, ladro, ladro! Don Eugenio tornò assiduamente, ma il nipote un po' gli diceva che aveva da fare, un po' che gli doleva il capo, un po' che stava per andare fuori. E tutti i tentativi del vecchio per salire a palazzo furono vani. Egli ebbe un bel dichiarare: «Mio nipote m'aspetta, m'ha detto che sarebbe in casa», oppure «L'ho visto rientrare», oppure «Eccolo lì, dietro quella finestra». Il portinaio, i cocchieri, i famigli gli dicevano sul muso: «Vostra eccellenza può andarsene, che perde il suo tempo». E gli davano dell'eccellenza come in tempo di carnevale ai facchini di piazza vestiti da barone. Donna Ferdinanda lo cacciò via come un cane rognoso. Il duca gli dette un piccolo soccorso, facendogli intendere di non dover fare assegnamento sopra altre lemosine. Procurargli un posto era il meglio che si potesse fare e ciò che egli stesso desiderava. Quindi Benedetto Giulente, il quale lo aveva anch'egli sovvenuto, ne parlò a Consalvo. Eugenio aspettava che gli procurassero un posto di professore o di cassiere, tanto da vivere signorilmente senza far nulla. E siccome non lo contentavano, fermava per istrada le persone di sua conoscenza, narrava a modo suo i propri casi. «M'hanno spogliato, m'hanno ridotto alla miseria. Mio fratello, il Benedettino, m'aveva lasciato 500 zecche l'anno e stracciarono il testamento, ne fecero uno falso. Un soldo, per favore, per questa volta sola!» E per procacciarselo dava spettacolo della sua pazzia. Certuni gli domandavano chi era, se non era il cavaliere Uzeda. E allora lui. Eugenio Consalvo Filippo, Blasco Ferrante, Francesco Maria, Uzeda di Francalanza, Mirabella, Oragua, Lumera, eccetera, eccetera. Un soldo per comprarmi un sigaro. Lisa Natoli ha letto I Viceré di Federico De Roberto, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Lidia Riviello, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.